TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Auto in un fosso a Persereano di Pavia di Udine, morto un 92enne. Il decesso forse provocato da un malore, perché l'impatto contro una spalletta in cemento non è stato violento. Si chiude dopo anni con una piena assoluzione una lunga e travagliata vicenda giudiziaria per la ICOP di Basigliano, legata a un'accusa di inquinamento ambientale nella realizzazione in Puglia di un microtunnel per il passaggio del gas. Ovo via Trieste, una storia infinita dopo l'approvazione della delibera in consiglio comunale che anticipa i fondi per l'opera in attesa dell'arrivo dei finanziamenti promessi dal Ministero. Stamattina, con una conferenza stampa, il comitato Novo Via ha annunciato per lunedì un'iniziativa diversa. A Pordenone buon debutto per l'iniziativa Appuntamenti con il Sindaco, in cui il primo cittadino Alessandro Basso ascolta sotto la loggia municipale segnalazioni, problematiche e proposte espresse dai cittadini e legate alla vita della città, senza bisogno di appuntamento, secondo l'ordine d'arrivo. Il 2026 si apre in un clima di incertezza per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, con investimenti e nuovi progetti rallentati dalle tensioni geopolitiche internazionali e una conseguente prudenza nei consumi delle famiglie, il quadro delineato da Confartigianato regionale. Primo appuntamento a Trieste per Un Cinema per Amico, rassegna promossa dall'associazione The Banfield, pensata per le persone fragili, per chi vive una difficoltà cognitiva e per le famiglie che se ne prendono cura. Proiettati film capaci di stimolare la memoria, ridurre l'ansia e favorire l'attenzione. Calcio, tra poco Udinese in campo, lo Stadio Friuli contro il Pisa, per il basket di A2, i commenti alla brutta prestazione della Gesteco Cividale, sconfitta a Rieti per 82-54 nella prima gara dopo la partenza del gioiellino Francesco Ferrari. Le 12.32, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beers e da Maria Spezia a condurre insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 10 gennaio. Un giornale che si apre purtroppo con una notizia di cronaca, un incidente mortale che è avvenuto questa mattina alle 5.30 a Persereano in via Garibaldi, nel quale un uomo di 92 anni, Giuseppe Cuffari, il suo nome, residente a Pavia di Udine, mentre si trovava alla guida di un'auto e fuoriuscito di strada in modo autonomo ribaltandosi in un fosso, si suppone a causa di un malore che ne ha causato il decesso, visto che la velocità in quel punto era moderata e l'impatto è avvenuto contro una spalletta in cemento e non è stato violento. Sul posto i vigili del fuoco di Udine, la SORES e i carabinieri di Pavia di Udine. Si chiude dopo anni con una piena soluzione una lunga e travagliata vicenda giudiziaria per la ICOP di Basigliano, legata a un'accusa di inquinamento ambientale nella realizzazione in Puglia di un microtunnel per il passaggio del gas. La stampa pugliese è tornata a parlare del caso TAP e soprattutto dell'aspetto legale. Nei giorni scorsi sono state rese note le motivazioni con cui sono stati assolti due dipendenti della ICOP di Basigliano, Iuri Picco, Agnello Fortunato, ingegnere e geometra, accusati di aver sostanzialmente inquinato la falda. Un'accusa che il giudice di primo grado ha ritenuto fosse infondata, non c'è stato l'appello da parte della procura di Lecce e dunque si chiude dopo 7 anni una vicenda che ha visto coinvolto l'impresa di cui è presidente Vittorio Petrucco, che abbiamo qui con noi proprio qui nella sua azienda di Basigliano, e a lui chiediamo qual è la sensazione dopo questi 7 lunghi anni. Di sollievo, perché per le persone erano stati chiesti 4 anni di reclusione per un'accusa per noi incomprensibile. E così il giudice vi ha dato ragione? Sì, siamo molto contenti di questo. C'è un altro procedimento che ha visto lei personalmente coinvolto per un presunto smaltimento di rifiuti, anche lì il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto inconsistente l'accusa e nonostante questo siete ancora in attesa dopo oltre 2 anni che si chiuda definitivamente questo procedimento, proprio perché la procura ha presentato ricorso ma oltre i termini. Esatto, è una cosa che è iniziata nel 2020 e siamo ancora in attesa di avere una risposta. Tempi troppo lunghi? Insomma, abbastanza, anche perché creano tutta una serie di disagi queste cose, perché ogni volta che tu lavori con la pubblica amministrazione devi raccontare tutta la tua storia relativamente a questi aspetti. In Italia magari lo capiscono, all'estero ti guardano un po' male. All'estero può portare anche a esclusione da lavori per queste ragioni. Ed è successo. ed è successo. Basiliano Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alle condizioni meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 8 gradi, a Udine 7, a Gorizia 5, a Pordenone 7 gradi e mezzo. A Tolmezzo e Forni di Sopra 1 grado e 5 decimi, a Tarvisio meno 1 grado e 5 decimi, a Piancavallo 2 gradi, a Sappada meno 5. Sul monte Lussari 5 gradi e 5 decimi sotto lo zero, meno 3 gradi sul monte Zoncolan. Sulla costa a grado 5 gradi, a Lignano 4. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, in giornata cielo variabile sui monti, poco nuvoloso nel resto della regione. Per domani cielo in prevalenza sereno, al più poco nuvoloso per qualche velatura al mattino. In giornata sulla costa e nelle zone orientali soffierà bora moderata, anche sostenuta a Trieste, in calo dal pomeriggio. In quota soffierà vento freddo da nord, moderato. Ovo via a Trieste, una storia infinita dopo l'approvazione della delibera in Consiglio Comunale che anticipa i fondi per l'opera in attesa dell'arrivo dei finanziamenti promessi dal Ministero. Questa mattina, con una conferenza stampa, il comitato No Ovo Via ha annunciato per lunedì un'iniziativa diversa. Non più l'esame di documenti tecnici e di sentenze, non più l'annuncio di ricorsi e controricorsi, ma una sorta di festa con tanta ironia. Si terrà appunto lunedì alle 18.30 al Cinema Ariston di Trieste, ingresso libero, con il titolo L'Ovo Via come non l'avete mai vista. Saranno proiettati 5 corti girati da Davide Salucci, che utilizzano il linguaggio della satira e dell'ironia, e sarà presentato un pamphlet dello scrittore Diego Marani dal titolo Un nuovo via in fondo al mare. Abbiamo chiesto a William Starz, tra i fondatori e anima del comitato Nuovo Via, se questa festa non tradisca la convinzione di essere ormai arrivati alla fine della vicenda. L'auspicio sarebbe questo, un ripensamento definitivo da parte di chi ha il potere di decidere di accantonare questa storia che ha visto impiegati risorse pubbliche e risorse umane anche per 4 anni, e forse sarebbe il caso di chiuderla, visti tutti gli esiti che ci sono stati rispetto alle sentenze del TAR che ci hanno riconosciuto la fondatezza di quanto noi osservavamo. Nell'interesse pubblico, perché nel momento in cui sono venute meno le risorse finanziarie del PNR, quelle di Salvini sono sul giro d'aria, oltre che scaglionati un tempo che non è compatibile coi tempi di esecuzione dell'opera, noi riteniamo che sarebbe il caso di chiudere. E quindi lo facciamo in una maniera ironica, a nostro avviso. Abbiamo lavorato tanto, è venuto il momento anche di riderci sopra. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. A Caneva oggi è prevista l'inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile, a cui è abbinata l'intitolazione della nuova via 6 maggio 1976, alle 14.30. E oggi a Pordenone c'è stato il debutto per l'iniziativa Appuntamenti con il Sindaco, in cui il primo cittadino Alessandro Basso ha ascoltato sotto la loggia municipale le segnalazioni, le problematiche e le proposte espresse dai cittadini legate alla vita della città, senza bisogno di appuntamento, ma secondo l'ordine di arrivo. Che cosa ha chiesto il sindaco? Ma abbiamo chiesto la parte relativa alla piazza di Borgomeduna e alla pista ciclabile di via Udine. Che riscontro ha ricevuto? Ah, il sindaco si è preso l'impegno di comunicarmi data inizio e fine lavori, di comunicare la data dell'incontro pubblico che ci sarà sulla tematica, e quindi siamo fiduciosi, insomma. Già prima delle 11 erano una quindicina i cittadini e le cittadine in coda per parlare con il sindaco. Sotto la loggia del municipio di Pordenone ha preso il via questa mattina la nuova iniziativa Appuntamenti con il Sindaco, voluta dal primo cittadino e volta a favorire l'ascolto diretto e il confronto aperto con la comunità. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso. Credo, per quello che ho potuto capire in questi primi mesi di mandato, che ci siano delle questioni molto pratiche alle quali poter corrispondere, anche per dare un'immagine di fuoriuscita da palazzo rispetto a questioni che magari emergono nella vita quotidiana, e lo scoprirò nelle prossime ore. Muniti di biglietto, i pordenonesi hanno aspettato pazientemente il loro turno. Tra le richieste, miglioramenti di viabilità, piccole manutenzioni, ma anche progetti e idee. E lei che cosa porta al sindaco? Ma un progetto che ho già presentato presso la Biblioteca Pubblica di Pordenone, dove chiedo di istituire un tavolo tecnologico riservato a tutti i cittadini, dove si può fare un gruppo sull'intelligenza artificiale, droni. Io confino con la scuola, c'è una catena di tigli che fanno recinzione con la mia abitazione, dove il fogliame ce l'ho sul tetto. Cosa devo fare? Ho provato in tutti i modi. Spero che il sindaco mi ascolti. Io chiedo un fatto di sicurezza per il mio quartiere, perché c'è un problema di viabilità, soprattutto nella zona delle scuole Loser e Nervesa. I ragazzini vanno un po' in mezzo alla strada perché le strade sono a doppio senso. Cosa ne pensa dell'iniziativa? È un'iniziativa che dovrò fare un po' tutti i comuni in Italia e speriamo che porti a qualcosa di positivo. Le date dei prossimi appuntamenti saranno comunicate attraverso i canali social e il sito web del comune di Pordenone. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il primo mese della stagione invernale, avviato il 6 dicembre scorso, si è concluso con numeri molto positivi, anche al netto di condizioni meteo non sempre favorevoli. Gli impianti dei 6 poli regionali hanno registrato in tutto 290.000 primi ingressi, in linea con i numeri della stagione precedente. A darne notizia l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Emidio Bini. La qualità e l'efficienza delle strutture, ha commentato Bini, è testimoniata anche dalla presenza delle nazionali femminili di sci di Italia, Svezia e Croazia delle discipline tecniche, che hanno scelto ancora una volta le piste del Friuli Venezia Giulia per i loro allenamenti. Il 2026 si apre in un clima di incertezza per l'impresa artigiana del Friuli Venezia Giulia, con investimenti e nuovi progetti rallentati dalle tensioni geopolitiche internazionali e una conseguente prudenza nei consumi delle famiglie. Difficoltà non solo strutturali, ma anche opportunità. L'analisi per il 2026 di Graziano Tilatti, presidente Confartigianato Friuli Venezia Giulia, non nasconde gli ostacoli del momento, ma evidenzia anche le opportunità. Siamo certi che il nostro mondo avrà senz'altro dei ritorni positivi, anche se ci sono questi venti di guerra, perché alcuni lavori, alcuni investimenti non possono essere procrastinati, per cui l'artigianato di servizio a supporto all'economia locale, al turismo, al terziario, questo avrà senz'altro un orizzonte positivo. Sull'altro piatto della bilancia, il problema del ricambio generazionale. Non abbiamo più questo ricambio generazionale all'interno della famiglia, ma quello che è ancora peggio, non ce l'abbiamo anche all'interno delle nostre risorse umane, perché una volta, se non c'erano figli, c'era magari il capo officina o il primo operaio che si prendeva in carico questa azienda. Cruciale quindi trasmettere ai giovani un messaggio positivo sull'importanza dei lavori manuali. Lavorando con le mani si può guadagnare, si può avere anche dei ritorni economici, mettere in sicurezza la propria famiglia e avere un livello di entrate economiche di molto superiore. Tra gli ostacoli ormai strutturali, il costo dell'energia. È difficile competere anche a livello europeo quando la nostra energia, quando tutto va bene, costa perlomeno un 30% in più rispetto agli altri, e in particolare quelle imprese artigiane che hanno forni, altiforni, che hanno un utilizzo grande di energia, è chiaro che non sono competitivi. Però credo che in questa regione, piano piano, le politiche introdotte dalla regione, con incentivazione per le imprese, cioè i contributi dati alle imprese per rendersi indipendenti dall'energia fossile e con le energie alternative e anche green, cioè l'installazione di impianti fotovoltaici, accumuli, tutte queste cose, ha portato gradualmente, ha dato un miglioramento di questa situazione, ed è tutto evidente che oggi, siccome la bottega artigiana non ha il tetto sopra, quella che sta nel centro storico, dovremo pensare alle comunità energetiche, agli autoconsumi, quindi a nuove forme di utilizzo dell'energia, quasi l'energia a chilometro zero, e credo che ci arriveremo noi come mondo artigiano. Seconda e ultima giornata a Muggia per l'energia, di iniziative in cui si può pedalare tutti insieme per generare energia green, alla palestra della scuola Sauro. L'istituto è diventato una vera e propria centrale dove si genera energia rinnovabile e pulita grazie alla partecipazione di tutti. Il progetto, diviso in due parti, ha proposto prima una parte didattica con riflessioni sul consumo di elettricità, e dalle 16:30 di ieri è iniziata la maratona di 36 ore per creare energia pulita. Primo appuntamento per un cinema per amico, rassegna promossa al Cinema Ariston di Trieste dell'associazione The Banfield in collaborazione con la Casa del Cinema, pensata per le persone fragili, per chi vive una difficoltà cognitiva e per le famiglie che se ne prendono cura. In calendario ci sono 6 appuntamenti che propongono la proiezione di film in chiave di strumento capace di stimolare la memoria, ridurre l'ansia e favorire l'attenzione. Godersi Fred Astaire in un contesto tranquillo e sereno in compagnia dei propri familiari o amici. Un'esperienza cinematografica inclusiva e accessibile rivolta alle persone fragili o con decadimento cognitivo, proposta dall'Associazione The Banfield, al Cinema Ariston di Trieste, in collaborazione con Cappella Underground e Casa del Cinema. Un cinema per amico propone 6 appuntamenti mensili, tutti di sabato mattina, con la caratteristica di essere demenzia friendly. Gli operatori, sempre presenti in sala, le chiamano proiezioni morbide. Esther Bianco, coordinatrice della rassegna. Facciamo degli adattamenti in sala, quindi c'è luce suffusa durante la proiezione in modo da favorire l'orientamento nello spazio. Abbiamo regolato un pochino l'audio per evitare picchi, ma soprattutto sono dei momenti di socialità perché c'è una pausa lunga e abbiamo un po' di così un rinfresco offerto a tutti, quindi è un momento per stare insieme e godere del cinema anche quando ci sono delle fragilità cognitive. Anche quella cinematografica è un'esperienza che va vissuta insieme a chi ogni giorno si prende cura delle persone con demenza, decadimento cognitivo o Alzheimer. L'associazione The Banfield pensa anche ai caregiver, offrendo attraverso la Casa Viola un ciclo di 6 incontri formativi per affiancarli nella cura dei propri cari, con occasioni di dialogo con gli specialisti che rispondono a quelle che sono le necessità e i dubbi più frequenti. Rosanna Palmieri, neuropsicologa. Sono tutte domande che riguardano il come mi prendo cura della persona che ho accanto, quali sono i servizi disponibili, cosa posso fare, chi mi può aiutare, come posso anche ritagliare del tempo per me caregiver e quindi anche migliorare la relazione con la persona di cui mi prendo cura. Il primo incontro si terrà lunedì, quando si rifletterà sulla necessità di superare l'idea che le cure palliative riguardino solo le fasi finali della vita e su come siano fondamentali lungo il decorso della demenza. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. L'Udinese giocherà nel pomeriggio allo Stadio Friuli contro il Pisa. I bianconeri cercheranno continuità dopo la bella vittoria fuori casa contro il Torino e potranno schierare la stessa formazione vista all'Olimpico, con l'unico dubbio su Christensen, che ha un piccolo problema fisico e potrebbe partire dalla panchina. Fischio d'inizio alle 15. Per il basket in Serie A giocano domani in casa sia la Udine contro Cremona, sia la Pallacanestro Trieste, quest'ultima di fronte a Cantù, per cercare con un successo la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. In Serie A2 ieri sera la Gesteco Cividale ha subito una brutta sconfitta sul campo di Rieti con un passivo di quasi 30 punti. Troppo brutta per essere vera. Cividale si presenta a Rieti nella prima gara dopo la partenza del gioiellino Francesco Ferrari e incassa un 82-54 che si commenta da solo. Squadra completamente fuori fuoco, esclusi i primi minuti e soprattutto imprecisa in fase realizzativa, con i laziali guidati da Franco Ciani in panchina che ne hanno rapidamente approfittato. E dire che la partita si era messa bene, con un 10-2 iniziale per gli uomini di Pillastrini, poi però si è spenta la luce. Rieti ha rimontato lo svantaggio grazie alle triple di Palumbo, Perri e Guariglia e grazie ad un parziale di 20-8 ha chiuso il primo quarto sopra di 6. Nella seconda frazione, ulteriore allungo dei padroni di casa, grazie anche ad una disastrosa prestazione al tiro di Cividale. Una sola tripla a segno su 10 tentativi, quella di Cesana, che ha riportato gli ospiti sul meno 6 in linea di galleggiamento a un minuto dall'intervallo lungo. A quel punto, però, di nuovo Udom e Perri hanno riaperto la voragine, chiudendo il parziale sul 39-27. La situazione è peggiorata ancora nel terzo quarto. La difesa dei Ducali tutto sommato ha funzionato, ma la serata al tiro ha continuato ad essere da dimenticare. E così il distacco si è ampliato e il terzo tempo è finito 63-42. Cividale non ha trovato energie per cambiare l'inerzia della partita e Rieti ha allungato ancora fino al più 28 che si è registrato sull'ultima sirena. Una partita da dimenticare in fretta. Cividale rimane comunque nel gruppone di testa anche se fallisce l'aggancio alla vetta della classifica occupata da Brindisi, Pesaro e Rimini. Sabato una nuova trasferta sul parquet di Cento. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Domani sul terzo canale televisivo Rai alle 11:05, ma anche alla radio su Rai Radio 1 alle 6:05 andrà in onda la rubrica Est Ovest, curata dalla nostra redazione. Eccone un'anticipazione. In Ungheria è proibito il fumo nei locali e la vendita dei tabacchi è ostacolata. Malgrado ciò, sempre più giovani fumano. In dicembre e nei primi giorni dell'anno, Sarajevo era la capitale europea con il più alto tasso di inquinamento atmosferico. In Kosovo la vittoria di Kurti alle elezioni dovrebbe garantire stabilità al paese, anche se le trattative con la Serbia ristagnano. La Steaua di Bucarest, nell'86 la Coppa dei Campioni, oggi giochi politici la confinano nella Serie B romena. Inizia il Trieste Film Festival, la più importante rassegna italiana della cinematografia dell'Europa centrale, orientale e balcanica. Tutto questo a Est Ovest domenica alle 11:05 su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze, andrà in onda la tradizionale rubrica Vita nei campi. Questi gli argomenti che saranno trattati. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani con l'associazione Tartufai del Friuli Venezia Giulia parla delle possibilità di promozione del territorio grazie al fungo ipogeo. A seguire la potatura del frutteto a gennaio, l'odore delle piante e la minuscola vita al riparo sotto le cortecce. Concimi per l'orto di casa, imparare a distinguere tra mendanti e fertilizzanti in vista delle prossime sere. E ancora birre lager tedesche, dalle grotte della Baviera alla conquista del mondo. Dispense smart con app e sensori anche a casa, ma senza dimenticare l'intelligenza sensoriale. Schizanthus, fiore elegante ancora poco conosciuto, è l'orchidea dei poveri e viene dalle Ande. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti di oggi. Prima giornata per Extra con manifestazione dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop. In calendario la fiera di Pordenone per il fine settimana. Ospiti due personaggi iconici delle sigle dei cartoni animati, cioè Giorgio Vanni e Cristina D'Avena, che con altri protagonisti di settore animeranno il programma eventi, in aggiunta a Disneyamo, concerto che ripercorrerà la storia delle colonne sonore Disney. La mostra Mercato resterà tra i centri della fiera, accanto a 100 cabinati arcade vintage con i grandi classici del gioco anni 80 e 90 e a centinaia di console di nuova generazione. Apertura dalle 10 alle 19. Racconta la storia di una 14enne pakistana in fuga lungo la rotta balcanica che attraversa confini, violenze e ostacoli fino all'arrivo in Friuli Venezia Giulia. Il progetto musicale narrativo Zora di Nicole Coce-Ancic sul palco, un racconto di migrazioni, libertà ed emancipazione che dà voce a tante donne che vorrebbero partire ma non possono, interrogando il nostro presente e le politiche che regolano e spesso ostacolano il diritto di muoversi. Appuntamento a Udine nel parco di Santo Svaldo presso la comunità 9, cooperativa sociale Itaca, alle 19 con ingresso libero. È rivolto ai bambini tra i 3 e i 6 anni il progetto educativo della scuola dell'infanzia paritaria a indirizzo artistico musicale, oggi in presentazione. Atelier del suono e della musica, teatro e danza, accanto a didattica scientifica ed emozionale, sono le proposte incluse nella formazione organizzata con orario dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì. Appuntamento a Colonia di Tavagnacco, la Fondazione Bona, dalle 14:30. Lo scrittore e storico Angelo Floramo condurrà l'evento Guaritori Stregoni Cerusici Medici, organizzato dalla associazione di volontariato Amici dell'Ospitale, serata di raccolta fondi a favore dell'organizzazione Medici Senza Frontiere. Sul palco l'accompagnamento musicale di Paolo Forte alla fisarmonica, a San Tommaso di Maiano, all'ospitale San Giovanni, in piazza San Giovanni, alle 20:30, a ingresso libero. Diamo ora lettura di un comunicato del sindacato dei giornalisti Unirai, Fige Cisal, eletto il nuovo segretario Unirai. Per la prima volta una donna assume l'incarico in un sindacato dei giornalisti Rai, Sara Verta, già vice segretario e tesoriere, ex inviata dei programmi di informazione di Rai 1 e ora giornalista della TGR Lazio, che succede a Francesco Palese. Libertà, diritti, pluralismo, pari opportunità, difesa del contratto e tutela dei giornalisti precari, ha annunciato, saranno i cardini della missione di Unirai. Grazie a Francesco Palese per la tenacia e la passione con cui ha guidato il sindacato. Unirai ha raggiunto il pieno riconoscimento dell'azienda al termine di un percorso serio, coerente e trasparente, anche in attuazione di una recente sentenza sul pluralismo sindacale. Sara Verta ha dichiarato: sarò il segretario di tutti e non solo degli iscritti. E ora diamo lettura di un comunicato sindacale di Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della RAI. La RAI non può fare a meno della vigilanza. Senza la commissione parlamentare d'indirizzo, bloccata da oltre un anno, la RAI di oggi non risponde correttamente al ruolo di servizio pubblico a cui è chiamata. Anche nella gestione delle relazioni sindacali l'azienda utilizza in maniera arbitraria poteri di accreditamento che le norme non le concedono e tuttavia nulla accade, anche perché nessun organismo esercita quelle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce al Parlamento. Usigrai esprime a voi, cittadini, e alle forze sociali le sue forti preoccupazioni anche in relazione alla gestione dell'informazione in vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia. E alle 12.55 minuti si chiude così questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.